Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, bentornati, domenica 15 ottobre, sono le 14 e una manciata di secondi, Voice Anatomy sta entrando nelle vostre case. Oggi, come sempre sapete, salutiamo chi ha avuto i Natali in questa giornata nell'ambito di tutti i secoli del mondo. Allora, oggi, il 15 ottobre di tantissimi anni fa, nasceva Virgilio. Soprattutto nasceva anche Italo Calvino, ma oggi, il 15 ottobre, nasce un altro grande letterato che è Fedez. E allora io utilizzerei la voce del primo ospite, attore e doppiatore straordinario, che è Lorenzo De Angelis. Non devi emettere verbo finché non annuncerai queste poche righe scritte dal sommo Vate. Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. Certo. È che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragna è il papillon di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il mattino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia Groupon. Poi, lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso. No, ma è giusto, insomma. No. Io devo dire che è anche divertente, un bel testo. No, a me piace. No, no, è divertente. Auguri a Fedez, dai. No, quello sicuramente. No, stiamo giocando, ovviamente, perché insomma è nato Virgilio, è nato Rito Calvino. Noi però abbiamo letto una cosa di Fedez, che è un poeta contemporaneo. Assolutamente, sì. No, no, beh, poi quando uno ha successo, cioè, bisogna dire, non è che c'ha sempre ragione, però dal suo punto di vista. Però devo dire che questo è un pezzo che è anche intelligente, divertente, lui comunque è un ragazzo sveglio. Sì, molto, sì. A me piace molto anche su X Factor, si dimostrano competente musicalmente, anche se poi la sua musica è diversa da quella che lui ama sicuramente. Sì, questo sì. Il rap è bellissimo, io lo amo, però io ho davanti a me Tupac, Notorious B.I.G., Bontax and Harmony, cioè ho questa roba qui davanti. Cioè, vieni dalla vecchia scuola quindi. Sì, e beh, quello c'ho io, l'età la racconta insomma. Caro Lorenzo, anche tu sei un musicista, a parte essere un attore consolidato, sì, e un doppiatore consolidato. Guarda, mi fa piacere che ho aperto con questo testo, perché io come passione nella vita, oltre a fare recitazione, faccio musica e faccio rap, con il nome di LDA da quando insomma. LDA. Punto. L'aria fredda, eccolo. Mi sveglia come, esatto, ogni mattina. Dolce al volo, caffè, sigaretta in macchina e già sto in prima. Traffico, la gente isterica che suona e sbrocca, ma questa rabbia stamattina non mi tocca. Penso che vorrei svegliarmi sempre così, con lei vicino che mi dorme così. Anche se sono un casino, lei mi prende così, per come sono. Anche se spesso voglio stare solo, anche se a volte io distruggo tutto da solo. Quanto tempo sono rimasto solo, che è la cosa più importante. Devi imparare a starci per capire da cosa stare distante. Quest'ambiente spesso mi deprime, per questo scrivo rime, convinto di trovare prima o poi il giusto stile. E l'ho sempre ricercato, come l'amore che ho trovato. Farsi del male per sentirsi ispirato. Credevo che fosse possibile. Col refrain melodico. La senti? Mi piace. Ancora, questo è come la prima volta. Diciamo che questo è un pezzo molto melodico che ho fatto quando ero molto innamorato di una persona. E questo pezzo mi ricordo che Lorenzo De Angelis ha 33 anni, ne parla, esatto, come se fosse un uomo di 72, distrutto ormai da un amore che l'ha ciancicato, come, esatto, si dice a Roma. E invece è soltanto l'inizio di queste sofferenze, nostra notizia. È che ho cominciato a 6 anni e quindi ho. Non stavi quando avevi 6 anni con lei. Ti sei lasciato adesso? Mi sono lasciato purtroppo, però. Vuoi fare un appello radiofonico? Cioè, Lorenzo. Se potete vedere dall'immagine, lo conoscete, perché insomma, l'ultima fatica, a parte la navigazione internazionale che ha avuto, e la racconteremo, l'ultima fatica se di fatica si tratta, molto tranquilla, è un medico in famiglia, dove tu hai curato anche le musiche, oltretutto. Diciamo che il progetto di questo disco è nato da là, perché io ho fatto il personaggio di Geco, ho scritto le canzoni, una è Liberi senza te e mai avuto. Non è Pigiamasca, tu non hai un figlio piccolo, perché Geco è uno degli eroi di Pigiamini, Super Pigiamini. Questa non la sapevo. Non la questa... Sono Geco, c'è Gatto Boy. No, conoscevo il giocatore della Roma, quello. Sì, è vero, cioè, no, tuttora Geco. C'è Geco. Certo. E quindi... Per cui hai curato tutto quanto. Ho fatto le musiche e da lì ho pensato di fare un disco mio personale, che lo sta producendo Squarta, che è il produttore dei Corveleno. Adesso uscirà il terzo singolo e poi il disco più. Beh, devi venire a presentarlo a quel punto, solamente Lorenzo De Angelis, cantante Repparolo. LDA, certo. LDA, ti chiamerò così, LDA. Che sarebbe... significa? Che acronimo è? Cioè, guarda, è facile. Significato? Lorenzo De Angelis, LDA. LDA. Ecco, non conviene mai spiegarle le cose, perché so, è come la magia, no? Se il mago poi ti spiega il trucco, dice, ah beh, era facile. No, intanto mi hai stupito. LDA funziona, è come il mio nome in inglese, che è Joe I Teach. Funziona. Certo, Giuseppe, sembra... Giuseppe Insegno in inglese. Funziona. Ah, perché tu ti chiami Giuseppe Insegno? Eh sì, Pino è Giuseppe, Giuseppino Pino. Non lo sapevo. È così. Hai saputo una cosa importantissima. Insomma, Lorenzo De Angelis, abbiamo cominciato dalla fine. Beh, bellissimo. Sì. Sono interviste al contrario. Quanto io sono che pronto. Funziona. No, ma la cosa interessante è che tu lavori veramente da quando, da sempre. Ho cominciato proprio da bambino, a 6 anni, come doppiatore. E poi, per caso, diciamo, sono arrivato a fare l'attore anche. Ecco, diciamolo che quando uno comincia da piccolino, può cominciare come doppiatore. Perché comincia come quando uno è bambino e... c'è una famiglia italiana, parla italiano, certo. Dio dice, ammazza, il bambino così piccolo già parla arabo, certo, i genitori sono arabi, insomma, se respiri quell'aria puoi già cominciare a intervenire in sala, perché conosci la tecnica in 2 secondi, un bambino è una spugna, per cui capisce immediatamente. Un percorso strano, nel senso che io ho cominciato a fare il doppiaggio perché ero un bambino molto chiuso, non parlavo mai. E quindi uno psicologo consigliò a mio padre di farmi fare qualcosa che mi aprisse con le persone, che potesse essere uno sport. Ha esagerato poi questo. È sfuggita di mano. È sfuggito a tutti questa situazione, perché tutto sembri adesso, meno che una persona chiusa, anzi, sei molto comunicativo. È servito, diciamo. Non abbiamo detto a chi sta prestando la voce in questi ultimi anni il bravo Lorenzo De Angelis, ma tantissimi, veramente. Fra tutti l'ultimo che mi piace tantissimo, questo attore particolare che ti assomiglia anche, che è Andrew Garfield. Uno dirà chi è, perché so quei nomi, Ned, Gary Cooper, Brad Pitt, eccetera, però lui è il nuovo grande attore. Sì, comincia ad essere un bel nome, adesso ha fatto dei film importantissimi. Sì, L'Uomo Ragno l'ha lanciato, però, in un certo modo. Però Amazing Spider-Man. The Amazing, sì. Perché sono gli appassionati, sai che sono... Sì, guarda, io ho fatto il cattivo in 3 uomini, ho ammazzato lo zio dell'Uomo Ragno 3 volte, praticamente, come Uomo Sabbia, come Lizard, l'ho ammazzato sempre. Cioè, certo. L'Uomo Ragno ormai si segue così. Però è molto divertente. E soprattutto l'ultimo bellissimo, a parte dei Social Network. Social Network ha fatto Non Lasciarmi con Keira Knightley, bellissimo. Quello più bello di tutti è questo di Mel Gibson, l'ultimo uscito, bellissimo. La battaglia, non so come si pronuncia. Axon Ridge. Ah, vedi, già azzeccato, una delle rare volte in cui ci ho azzeccato. Permettetemi intanto di salutare dall'altra parte del vetro il nostro nuovo tecnico del suono, che non mi ricordo il nome, però... dimmelo, perché Antonio, perdonami Antonio, perché io abituato con Alessandro e Valerio che si alternavano, adesso abbiamo altre possibilità e c'è Antonio che ringrazio tantissimo, ha assistito e coadiuvato da una futura nuova tecnica del suono di Radio 24 di domenica, che mi accompagnerà, più bella di Antonio, di Valerio e di Alessandro sicuramente, anche più brava forse. La caporedattrice di se stessa, oggi come sempre Rachele, pronta a tutto. E i miei autori, senza i quali veramente non respiro, sono Mauro Meconi e la capoprogetto Alessia Navarro. Saluto anche Milano, la nostra messa in onda dall'altra parte, da su, dal nord Italia, che permette la messa in onda di Radio 24. Torniamo su Lorenzo. Sentiamoci già una cosa di Andrew Garfield. Vuoi cominciare con The Amazing Spider-Man o The Social Network che abbiamo qui? Come volete voi. Dai, cominciamo con Spider-Man. Questa non è una vita facile. Mi sono fatto dei nemici. Nemici potenti. Ho messo in pericolo coloro che amo. Ma l'unica cosa che mi perseguita da tutta la vita è scoprire la verità sui miei genitori. Sei un ricercato, Peter Parker. Non crederai a quello che dice la polizia, vero? Mio padre ha 500 uomini che ti cercano. 500? Mi sembra un tantino eccessivo. Senti, se devi rubare una macchina, non ti vestire da ladro di macchine. Hai scoperto il mio punto debole. I coltellini. Tu chi sei? Eccoci, esplosione. Bello, no? Ma è divertente, no? Doppiare questi film non è complicatissimo, nello stesso momento è complicato perché devi abbinarlo al suono, sì, alle immagini, alla musica, agli effetti, parlare in un certo modo, eccetera. Però insomma è divertente. Ma è un attore bravo, non bello, ma interessante. Guarda, questo non vuol dire che tu gli assomigli e non sei bello, tu sei piacevole, dai. Insomma, a proposito, abbiamo ricordato soprattutto che è libero, per cui andate su internet e cliccate. Spero che la mia ex non stia sentendo adesso. Ecco, tu pensi Orient 3, no? No, non bisogna, chissà, riprovare. Chissà, non lo so, guarda, che ormai sono 4 anni così, sono un po', non so più che dire. Vuoi leggere una poesia e dedicargliela? No, grazie. In 2 secondi, cioè vuoi recuperare? Non lo so, puoi utilizzare lettere per quello che vuoi, no. Va bene così. Sì. Insomma, dicevo, tu hai avuto poi un'esperienza internazionale che io, nonostante io ti conosca molto bene, soprattutto io devo ringraziare tuo padre più di te, perché io quando cominciai 37 anni fa cominciai con lui, con mio papà, certo. Sì, che questo non significa, sapete, ormai l'abbiamo sdoganata questa cosa, ovviamente, come dici giustamente anche tu, non è che il figlio di un doppiatore diventa doppiatore per forza, eccetera, o di un attore, no, perché tu hai sdirazzata la grande, sei diventato anche attore, cantante, diciamo, e che quant'altro ti aiuta, cioè, come appunto, beh, certo, faccio l'esempio sempre di Valentino Rossi. Se uno ha un papà che fa una cosa, certo, ti mettono lì dentro a 3-4 anni, nel senso, uno respira quell'aria. Certo, non puoi che cammina con una moto, insomma, a quel punto. Sì, non so che farà il figlio di Rocco Siffredi, ma comunque non è interessante. In sai questo che ho visto un documentario sul figlio di Rocco, cioè proprio su Netflix. Sul figlio? No, su Rocco Siffredi, che parla che il figlio, insomma, sia ben dotato, pare quanto il papà. Dice. Quello, speriamo, insomma, che continui questa tradizione italiana nel mondo. Noi ci vantiamo in tutte le direzioni. Assolutamente. Come la voce è la cosa più importante, non la decliniamo in tutti i modi. Anche questo ci arricchisce, no? Nel mondo siamo famosi, certo, anche per questo. È un'arte. Io sono orgoglioso anche di questo. Andiamo. Vabbè, non parliamo di centimetri, ma parliamo di voce soprattutto. Sarà una puntata anche questa molto ricca, continua il contest con questi giovani attori, doppiatori che hanno la possibilità, visto che comincia a essere sempre più difficile entrare in sala, sì, per problemi di band. La gente vuole andare su. Chi è? No, va bene, non ti preoccupare, Antonio. Puoi mandare. Tanto era sempre la voce sua, no? E allora va bene. Sempre più difficile entrare in sala a fare un provino perché Netflix, perché Amazon, perché HBO chiede la privacy, la sicurezza. Certo. Se noi spoileriamo una cosa diventiamo passibili di denuncia per milioni di dollari, insomma, sì, diventa molto difficile. Allora questo contest, grazie anche alla Warner che ci ha dato la possibilità di dare, la possibilità, scusate, la reiterazione, a questi giovani di potersi poi cimentare magari con un piccolo ruolo in un film importante. Quello può essere uno startup che noi siamo contenti di dare. Sono già di là molto emozionati, casomai un paio li facciamo entrare quando ci sei tu. Va bene, li mettiamo proprio in difficoltà estrema, così se superano questo è fatta. Ma sono io che vado in difficoltà estrema. No, ma poi tu sei un ragazzo onesto intellettualmente. Se volete parlare con noi, già arrivano dei messaggi di complimenti e di saluti e dicono che sei bello, ma non l'hanno mai detto a me. Grazie, come fanno a saperlo in radio, scusa? Beh, cliccano Lorenzo De Angelis in qualche modo su internet, ormai non puoi nascondere più niente. Hai ragione. Per cui è il 349-238-6666, se volete poi parlare con noi, se vi capita, 800-2400-24, siete sempre tantissimi, io sono sempre più soddisfatto dei complimenti che mi arrivano per la strada quando dicono ah bella, voi sanato, mi pensavo che, e invece fa compagnia. C'è un bel riscontro, sì, su questa trasmissione. È bella perché poi accompagna con i tutorial, con gli ospiti che sono poi particolari, e dopo di te ci sarà un cambio generazionale perché viene Edoardo Vianello, che insomma 80 anni quest'anno e circa 70 milioni di dischi venduti. Un mito. Sì, ancora si balla quella roba. Ma che scherzi, cioè, certo. Se tu levi un pezzo a House of Dance in discoteca e metti Abbronzatissima o Siamo i Vatussi o Lalligalli, tu continui a sono saltare. Sono classici intramontabili. Esatto. Poi ci saranno le pillole di Franco Fussi, queste pillole vocali, di salute vocale, importantissimi. Io mi voglio sentire un altro Lorenzo De Angelis, se non Andrew Garfield, che abbiamo sentito adesso su The Amazing Spider-Man, ma tu Harry Potter c'hai, sei anche un Harry Pottiano, ne facevi due, James e Oliver Phelps. Erano i due gemelli, i gemelli di Harry Potter. Diciamo che io sono cresciuto con loro, infatti sono un po' in crisi quando mi hanno chiesto di questi due, insomma, di questi personaggi che ho doppiato. Io ho cominciato a farli che avevo 14 anni, sì. 15, hanno fatto tanti film, fino a quando è l'ultimo che hanno girato di Harry Potter, adesso non mi ricordo. Sì, come vedete Harry Potter dal primo all'ultimo, all'inizio un bambino, l'ultimo c'aveva all'inizio le prostatite. E Puccio, cioè, insomma, ci ha cresciuto. Sono cresciuti insieme, tutte le malattie, poi, che ormai, però quelli restano secondo me poi... Cult. Cioè, sì, cult, ma soprattutto rimani prigioniero di Harry Potter, come fai a uscirne? Non credevo che due personaggi comunque che non è che erano protagonisti potessero piacere così tanto. Ma sì, perché il film sta dicendo Rachele che non dobbiamo trattare male questa realtà di Harry Potter. No, ma io sono, la rispetto tantissimo, anzi che scherzi. È che ma pure Twilight noi risparmiamo, ce ne siamo felici. E che spesso un doppiatore va a fare un personaggio che non si aspetta che abbia questo riscontro. Esatto, no, ma quello succede come i nuovi vampiri. Io posso essere affezionato a Christopher Lee come Dracula il vampiro, Twilight meno, anche perché quando vanno alla luce invece di squagliasse questi vengono tutte perline, cioè sudano Swarovski. Non l'ho mai visto. Capisci, però quando incassi 3 miliardi di dollari in tutto il mondo... Riconosci? Sì, lo riconosci, ma poi vivono in un paese nel Maine dove ci saranno 200 abitanti, di cui 120 sono vampiri, 60 meccanici che diventano uomini lupo. Io facevo uno degli uomini lupo, credo. E poi lui, lei e il papà, la madre Giancera che ha capito che sta a fare in quel paese, e uno che ha aperto un negozio alimentare e ha chiuso perché dice che sto a fare, tanto nessuno magna sta roba. Però ci sta, insomma, il successo. Uno lo può prendere in giro proprio perché è un successo, come 50 sfumature di grigio. Tu non le... Ah no, lì non è Mete. Non l'ho guardato perché... Dovete vederlo. Assolutamente. Grigio e sfumature di nero. Cioè, dovete vedere tutte e due, non vedo l'ora che esce quello rosso, perché è l'ultimo della trilogia. E come... Ah, guarda, è troppo divertente. No, è divertente. Stasera torno a casa e me lo... No, guardalo perché fa ride, cioè... Tanto sono single, quindi posso andare a trovare. Esatto, ma non ti provocherà nessun tipo di autoerotismo, cioè non... No? No. E allora vabbè. No, no, lo dovete vedere. L'hanno visto tante persone, perché pure quel film in tutto il mondo è cassato 700 milioni di dollari, insomma, per cui rispetto. Però, vedete, guardatelo, ma attentamente. Lo farò. Queste sono le 2 del pomeriggio, non posso raccontare quello che accade in quella stanza. Io stavo riscrivendo 50 sfumature di gricia, che mi divertiva molto di più... parlare di queste sfaccettature della pasta asciutta. Sentiamoli i fratelli terribili di Harry Potter, doppiati entrambi da Lorenzo De Angelis. Eccoli. Fred, tocca a te. Lui non è Fred, io sono Fred. Parola mia, insomma, e dici di essere nostra madre. Oh, scusami, George. Te l'ho fatta, io sono Fred. Ehi, complimenti, Harry, Boston ci ha informati. Anche Fred e George sono nella squadra, battitori. Il nostro compito è assicurarci che tu non esca insanguinato di brutto. Non promettiamo niente, è chiaro. Gioco duro il Quidditch. Brutale, ma sono anni che non muore nessuno. Qualcuno sparisce di tanto in tanto, ma rispunta fuori dopo un mese o due. Adesso, Harry, vieni, unisciti ai grandi. Che state facendo? Shh. Cos'è questa robaccia? Cos'è questa robaccia, dice lui. Quella là è il segreto del nostro successo. È una sofferenza dartela, credimi. Ma abbiamo deciso che ne hai bisogno più di noi. George, a te l'onore. Giuro solennemente di non avere buone intenzioni. Ecco, bellissimo. Neanche tu ti riconosci no, più. No, perché è come sentirmi in Casper, che avevo 11 anni quando l'ho fatto, o Babe, che ne so, il maialino coraggioso. Che io... facevi a Babe, il maialino? Sì, Babe. Amore. Uno e due ho fatto, Babe Mancini. Uno e due, non contento. Ma... Tu sei Casper. E sono l'anima della festa. Eccoti. Non ci credo. Ho capito che vorresti venire anche tu. Ci divertiremo un mondo insieme. Mi commuovo. Casper, ho già chi mi accompagna. Cosa avrebbe questo Vic che io non ho? Bellissimo, Casper. Senti. Gli batte il cuore. Oh, capirai, tutto qui. Nell'abbronzatura. Fa molto male alla pelle. Si riflette nello specchio. Se io fossi vivo, verresti alla festa di Halloween con me. Bellissimo, tu non ci crederai. Io in questi giorni, sono un figlio piccolino, 2 anni e 8 mesi, gli ho fatto vedere Casper. Beh, un calcio. Gli faccio vedere tutto qua, cerco di insegnargli un po' di cinema, un po' di musica, quando è piccolo... E Casper è l'ultima cosa che abbiamo visto ed è romanticista ed è bellissimo il film. Capolavoro. Sai che a me a Roma Casper è bello, bello, bellissimo. Bello. Sì, a me a Roma quando vado in giro ancora, siccome Casper fu un cult appunto quando noi avevamo 11-12 anni, ancora mi chiamano Casper alcuni amici. Casper, Casper. Sì, ma c'è una grande dolcezza quel film e gli effetti speciali bellissimi, quei 3 fantasmi, gli zii, Ciccia, Puzza e Molla. Il film di una generazione è stato quello, veramente. No, no, bello, bello. Recuperatelo se avete la possibilità di vederlo anche voi, se avete un figlio, come al solito si fa quando si va a vedere Disney, no? Uno va a vedere perché accompagno mio figlio, alla lacrimuccia la fai assolutamente anche a tu. A volte alcuni mi chiedono: mi fai la voce di Casper? No, è difficile. Guarda, è un po' difficile. La vedo dura. Sono un po' cresciuto nel frattempo. Capito? Abbiamo trovato pure Casper lì e Rachele si mette alla ricerca come che perché lei è. Non si sa. Quanti anni hai, Rachele, perdonami? 28, sembra che c'ha 75 anni quando ci parli. Siamo, è così, è così. Tutto. No, assolutamente. Io però voglio parlare anche della tua esperienza internazionale, perché sì, è bello che un italiano vada all'estero da piccolo, poi mi dici perché sei tornato. Tu hai fatto dei film importanti, con, sì, prima ho chiesto come si pronuncia, perché Antoine Kingard. Fuqua, è un famosissimo regista, fortissimo. Ha fatto Training Day, Training Day, che ha valso l'Oscar a Denzel Washington. Dei capolavori. E tu hai fatto King Arthur, dove... Sì, diciamo che io appunto fra i 12 anni e i 20 ho fatto moltissimo l'attore, fra televisione, ho fatto Incantesimo 4 anni, sì, in Italia. E poi ho fatto questo provino nel 2004 e mi hanno preso in inglese. Sei andato lì? Com'è successo? No, sono venuti qua a Roma a fare dei provini, però cercavano questo personaggio a Londra, in Inghilterra, in Francia. E mi hanno preso, è stato... Hai conosciuto King Arthur lui? Certo, ci ho lavorato insieme. Esatto, nel film. Abbiamo girato insieme, ho fatto questa esperienza tra Dublino, Londra e Los Angeles all'epoca. E ti sei doppiato o ti sei fatto doppiare magari? La cosa bella di tutto questo, che alla fine è attinente alla tua trasmissione, è che quando è arrivato il film in Italia... mi stava doppiando Davide Perino. No, con tutto il rispetto di Davide, no, che è bravissimo. Io Davide è bravissimo. Ho capito, ma tu fai questo di mestiere. No, perché nessuno si era accorto, nessuno che poteva, che ero io. Adesso non mi ricordo chi era il direttore, quindi io chiamai la società, ma è arrivato il film. E Fabio Boccanera doppiava lui, il protagonista. Esatto, io, sì, scusami. Clive Owen. È stata questa cosa, quindi grazie alla mia telefonata che faccio questo lavoro... Ah, ma sei tu veramente? Quindi sì, sono andato a doppiare. Sei doppiato. Tu pensa che bello ci pensare, andare a vedere il doppiato da Davide. Che ci sta sempre pure bene su di te. Ma sì. Io pure, il mio primo film è importantissimo internazionale, è stato mezzo destro, mezzo sinistro, con Gigi Andrea. E... io facevo Carlo Vacca, per gli amici Vacca Carlo, insomma questa era una cosa capito. Importante. E sono stato doppiato in Veneto. Ma veramente? Sì. Vabbè, stupendo. 38 anni fa, però per dire la differenza fra King Arthur... E mezzo adesso, che è un cult, però incredibile. Insomma, sì, a parte questo, oltre a questo, anche Alexander di Oliver Stone. No, lì è stato. È un altro tipo di Alexander. Perché in America fanno spesso dei film che escono solo sul mercato americano. Sì. E io ho fatto 2-3 film in quell'anno. Ah, posso dirla sta cosa? Che io ho fatto 10 film e sono usciti solo sul mercato americano. Certo. Perché non si sa. È come gli spot, alcune volte girano degli spot. Io ho fatto degli spot solo in Germania o solo in Francia, solo per il mercato tedesco. Cioè, bella questa a cosa, me mi hanno doppiato in tedesco e quando mi sono andato a sentirmi, era il Golden Martin Pescatore con Mara Venier, avevo la voce di un trentenne, eppure ne avevo 14, cioè, ma perché mi hanno messo questa voce? È importante. Sembra... Il doppiaggio tedesco diciamo che è un po'... non è come quello italiano. No, siamo bravi, accettato o non accettati, siamo veramente più bravi al mondo, per cui questo Alexander l'hai fatto con loro. Sì. Non era quello di Oliver Stone, magari purtroppo. Poi ho fatto altre esperienze, sempre in inglese, come Ferrari con Castellitto. Poi ho fatto tanta televisione qui, con tante fiction. Sì, tornate. No, veramente, infatti arrivano tante cose che la gente ti conosce perfettamente, ti fanno i saluti come talentuoso. Qualcuno dice impressionante il suo curriculum, eccetera, nonostante però, la tua giovane età. Se c'è una cosa che voglio dire è che ringrazio perché... A parte grazie a tutti i messaggi che arrivano, ma ringrazio che faccio il doppiaggio tutti i giorni perché è il mestiere che mi ha insegnato a recitare. Certo. E quindi, cioè, io dico sempre che un attore non è detto che sia un doppiatore, ma un doppiatore è un attore. Perché spesso vedi questi attori che fanno prese dirette che poi vengono a doppiarsi e... Si perdono perché ci vuole una tecnica, ci vuole... Ma soprattutto puoi migliorarti, qualcuno pensa di certi attori che palestra. Magari invece puoi migliorare nel doppiaggio quello che hai già fatto molto bello. Certo, una presa diretta quando piangi, urli, eccetera, ci sta. Però tante volte riesci veramente a dare magari uno spessore maggiore, riesci a utilizzare il microfono, che è un elemento importante. Certo. Cioè tu puoi soffiare così e parlare in un certo modo, sì, dare la forza. Certo, c'è cioè, pure un tecnico, devi avere pure il timbro giusto, eccetera. Però può assolvere altri complimenti. Vabbè, basta sti complimenti. Dite una cosa cattiva. Ditemi un hater, almeno un hater ci sarà. La tua ex fidanzata che ti scrive adesso. Ha detto, ma cosa stai dicendo? Io vorrei ancora. Vabbè, lasciamo stare questa cosa molto, molto troppo interna. Per cui tu hai fatto veramente tutto, tanto. 33 anni è un'età importante. Si sì, cammina ancora, sull'acqua a questa età. Non sono, diciamo, del tutto soddisfatto. Vabbè, certo, dai, non devi. Dico sempre che uno ogni volta che fa un lavoro ricomincia da capo, poi. Sempre, come se fosse la prima volta. Molte cose neanche me le ricordo più, diciamo, cioè le ricordo se me le ricordano, però vado sempre avanti, ecco. Ma quello sì, però te lo vivi il presente, riesci a vivere, a godertelo? Ci sto provando. Il passato? Passato cerco di ricordarmelo quando sono giù, magari per il futuro, per dirti queste cose qua. Perché bisogna ricordarsi anche il passato, le cose che uno ha fatto. Quella cosa romantica è quella, però se ricordi al passato poi magari torni sugli stessi passi. È vero. Vedi che torniamo sempre lì. Pino, vera, sì, mi c'è stai uno sguardo triste. Sono triste oggi, mi stai c'è aiutando. Uno sguardo triste e ti sto aiutando a cadere nel baratro. Tu quando esci da qui c'è bisogno di richiamare con lo psicologo, esatto, di quando da piccolo non ti aprivi con le persone. Dici, perché non devi far cominciare a lavorare un bambino quando è piccolo? Che poi diventa... Senti, andiamo un attimo a proposito, andiamo un attimo in pubblicità, però sentendoli su un film straordinario che è Paranoid Park. Oh, sono contento che hai tirato fuori. Bellissimo, di Gus Van Sant. Gus Van Sant, no? Sì. Un regista che azzecca delle cose meravigliose e a certe volte si perde, però sì, ha fatto dei film veramente molto interessanti, che è un film veramente intenso e si poggia proprio totalmente sulla bravura del regista, di questo personaggio che tu hai toccato, sì, che è Gabe Nevins. Allora, ce l'ascoltiamo, andiamo in pubblicità e torniamo qui in diretta su Radio 24 con Lorenzo De Angelis. Sono le 14:25 primi e 9 secondi. Un giorno verso la fine dell'estate io e Jared facevamo un giro in centro. A un certo punto gli ho detto: non so se mi sento pronto per Paranoid Park. Al che lui si è messo a ridere e mi ha risposto: nessuno è mai pronto per Paranoid Park. Più o meno un mese dopo a scuola si presenta uno della polizia. Vi sto facendo delle domande, nessuno qui deve considerarsi sospettato. È stata una tragica fatalità o un efferato omicidio? Io avevo cercato di cancellarmi dalla testa quel momento, ma tornava sempre a galla. Ho parlato col tuo amico Jared, mi ha detto che quella sera avevate una mezza idea di andare a Paranoid Park. C'è un testimone che dice di aver visto qualcuno buttare qualcosa dal ponte. Noi quell'oggetto l'abbiamo trovato, è uno skateboard. Se ti viene in mente qualcos'altro, mi fai una telefonata, intesi? Ok. Mi raccomando. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy, le 14:31, sempre il bravissimo Lorenzo De Angelis sta dicendo tantissimi complimenti, c'è un messaggio che mi ha fatto molto ridere, che è molto carino, gentile insegno, già il fatto gentile insegno è molto bello. Educato. Si sente che è una persona d'altre idee, ma io ho un pubblico veramente medio-alto che mi corregge spesso e volentieri. Mi identifichi per favore la meravigliosa signora che legge la pubblicità della trasmissione Olimpia di Radio 24, purtroppo si sente tanto di rado. Quando inserisce un piccolo sibilo nella pronuncia della S di Zeus, mi procura un brivido delizioso nella schiena. Fatela leggere di più, fatela leggere tutto, dice Sofì. Non lo so, lo sai, chiederò, però è molto bello, Sofì. Mi dispiace che tu hai questo brivido quando senti lei, no, quando senti Lorenzo o me. Anche io ho un po' la S. Però dire Zeus. Zeus. È provocato, Sofì? C'è una S un po' sibila, forse. Zeus. Mandaci un messaggio, dici qualcosa pure a noi, siamo un po' invidiosi. Abbiamo fatto entrare, caro Lorenzo, già due ragazzi che vogliono cimentarsi in questo talent. Allora avete un minuto di tempo, nome, cognome e la lettura che farete. C'è musica di sottofondo, qualcosa? No, a no. Secco. Quanti anni hai intanto, scusami? 22. Di dove vieni? Tutti 22, 23, che rabbia. Beati voi. Vengo dalla campagna, ma studio a Roma. Ah, perfetto. La campagna dove? Diciamo, è in provincia di Caserta. No, il nome della cittadina. Ah, Alife, si chiama. Diciamo, siamo fatti di questi piccoli centri importanti noi in Italia, eh? Per cui è giusto che le persone di Alife? Alife, sì, sì. Dov'è? Io ho girato veramente in lungo e largo. È in un paesino in provincia di Caserta, vicino, diciamo, al confine tra il Molise e la Campania. Sei lì? Sì. Va bene. E allora, nome e cognome è quello che dove ti cimenterai, vai. Marco Marchitto. Il pezzo è? Un pezzo di Matrix. Ok, vai. Quello del mondo ideale era un sogno dal quale il vostro primitivo cervello cercava, si sforzava di liberarsi. Ecco perché poi Matrix è stata riprogettata così, all'apice della vostra civiltà. Ho detto vostra civiltà di proposito, perché non appena noi cominciammo a pensare per voi, diventò la nostra civiltà. E questa naturalmente è la ragione per cui noi ora siamo qui. Evoluzione, Morpheus. Evoluzione. Come per i dinosauri. Guarda dalla finestra. Avete fatto il vostro tempo. Il futuro è il nostro mondo, Morpheus. Il futuro è il nostro tempo. Eccolo qua. Una vocalità di un uomo di 40 anni, tutto si è arrabbiata. Sei così? Chi lo faceva questo pezzo? Era Luca Ward su... No, era un doppiatore di Agente Smith. Ah, di Agente Smith, sì. Forse non mi ricordo se era Angelo Maggi o chi. Mi sa Angelo Maggi. Sono così arrabbiato era. Sì, anche un po' meno, un po' più quieto, però ho voluto fare un po' più. Voluto fare questa cosa. Va bene, ce l'abbiamo, grazie. E invece il tuo collega alto 2,45 m. Buongiorno a tutti. Ciao, da dove vieni? Mi chiamo Domenico D'Agostino, sì. Sono di Ischia. Ah, oh, lo vedi, siamo tutti in zona, qui. Bellissimo. E niente, però da diversi anni vivo a Roma, dove studio recitazione, faccio bene, teatro. Bene, certo. L'importante è quello, la base deve essere quella, allora. Certo, bravo. Certo. E cosa hai portato? Ho portato un piccolo estratto dalla favola di Amore e Psiche di Apuleio. Capito? Che però, usciamo? Andiamo via. Andiamo a questo via, punto. Allora, a questo punto andiamo via. No, perché poi musica a secco, un sottofondo dolce. Per me è uguale, ce sottofondo... l'abbiamo. Antonio è pronto a tutto. Hai pagato Antonio prima di entrare? Certo. Ecco, e lui ti ha messo questa da 12 euro. Nome, cognome e il pezzo. Domenico D'Agostino. Il divino amante non lo abbandonò così buttata per terra, ma volò su un cipresso lì vicino e dall'alto di quella vetta, profondamente commosso, le parlò in questo modo. Proprio io, mia ingenua psiche, disobbedendo ai comandi di mia madre Venere, che ti voleva innamorata di un uomo miserabile e abietto e condannata a sposarlo, sono volato da te e sono divenuto il tuo sposo. Ho agito con troppa leggerezza, lo so. Io, il famosissimo arciere, mi sono ferito con le mie stesse mani e ti ho fatta mia sposa perché poi tu mi credessi una bestia e volessi con un'arma tagliarmi la testa. Quella testa che porta gli occhi innamorati di te. Eppure, in ogni momento, io ti mettevo in guardia contro un tale pericolo e più di una volta ti ho amorosamente avvertita. Ma quelle tue egregie consigliere avranno il castigo che si meritano per i loro malvagi insegnamenti. Tu invece sarai punita soltanto con la mia fuga. E dopo aver parlato in questo modo, si levò rapidamente in alto sulle ali. E via, e volò. Allora, va bene, perché tu hai fatto una sorta di recitazione cinematografica e teatrale. Le finali. L'unica cosa che mi sento di consigliarvi adesso, perché poi non devo entrare nel giudizio in questo momento, è quando tu fai il finale col fiato rendi tutto troppo tutto uguale. Dobbiamo andare a questo punto, che la nostra vita farà questo. E che è un po' il fiato spezzato. Sì, adesso. No, che bisogna timbrare fino alla fine, perché l'intenzione poi, Lorenzo lo sa perché è anche un bravo direttore di doppiaggio che mi ha diretto, regge sul timbro, sulle ultime, proprio le ultime lettere. C'è un trucco in teoria per lavorare su questo, mettere una T alla fine di tutte le frasi. Ah, ma dai. Questa me la insegnò Galassi, insomma. Gianni Galassi. Perché anch'io avevo questo difetto, che spesso non timbravo le finali sul finale, quindi mi insegnò questa cosa. E la tipo se si, non si deve sentire? No, è un esercizio che uno fa con se stesso, non è che poi il doppiaggio. Metti alla fine. Esatto. Beh, rubala questa cosa, perché certo. Sennò rischia di diventare tutto identico. In realtà è una cosa che ho fatto, questo esercizio, solo che adesso sto proprio col fiato spezzato. Sì, non preoccuparti, adesso te lo dico per dare un piccolo pillole di consigli, ci mancherebbe altro, perché anche tu la voce devi stare attento come parli, perché ce l'hai molto ingolata e gratta tantissimo. E poi grazie alle nostre pillole di salute vocale con Franco Fussi, seguitele, scaricatele. Che ascolto sempre. Sì, prendo tutti, dobbiamo ascoltarla certo. Tutti, anch'io, guarda, nonostante l'età. Ok, bene, no, rimanete pure qui fino alla fine del blocco, perché rimaniamo insieme. A bella intensità c'era. Sì, sì, c'era comunque, poi giudicheranno e giudicheremo più avanti quando sentiremo tutti questi file. Ma già essere in diretta su Radio 24, già la possibilità certo. Di questa... bellissima realtà, mi sembra già un pieno segno. Vabbè, ma intanto me, tanto la radio, poi insomma sono felicissimo di avere queste possibilità. Invece facciamo leggere sto ragazzetto qui, visto che Rachele ci ha dato questa cosa tratta da, non è di Harry Potter, vieni qui Rachele. Allora, ti piace adesso... tanto questa cosa che hai dato a Lorenzo da leggere, perché nell'occasione della morte di uno dei due gemelli nel film Harry Potter c'è stata una lettera scritta dai seguaci, dai follower di questi, e che è diventata virale questa lettera, in cui immagino, vieni vicino al microfono, in cui immaginano uno sketch in tra italiano, la madre sì. In cui immaginano una scena sì. Natalizia tra sì. La madre Molly e il gemello che è rimasto vivo. Per cui è molto toccante, è molto noi, toccante sì. Per voi. Speriamo di essere all'altezza allora. Ah, attenzione, funziona, anche il vostro Zeus è sottilmente perturbante. Ah sì? Sofì, manda, cioè telefonaci, parlaci, facci sentire la tua voce. Forse se all'età giusta potresti pure ricominciare una storia. Basterebbe dire soltanto cose con la S finale a Sofì. Esatto. Allora leggiamo questa lettera, mettiamo un altro sottofondo, immagino dolce, no? Ripresa, vai. Erano passati esattamente 30 anni dalla fatidica battaglia che si era portato dietro anime, ricordi e la coscienza di molte persone. C'era chi quei terribili momenti li aveva tatuati nella mente e ne scorgeva ogni singolo spiraglio ovunque, anche nelle cose più semplici. Erano passati esattamente 30 anni, ma in casa Weasley si respirava ancora quell'aria di serenità, di calma e quiete e confortevole, che cingeva alla vita come un abbraccio e faceva sentire al sicuro. Era la vigilia di Natale, come sempre, e mamma era intenta a lavorare alla maglia, nella sua fidata sedia a dondolo, mentre attendeva che il pollo sfrivolante nel forno fosse giunto a termine della cottura. Mentre era intenta a sciogliere un nodo con le mani tremanti, entrai per controllare che avesse aggiunto anche le patate. Mamma si oscurò in volto, la vista annebbiata le permetteva di vedere i miei capelli rossi ed il forno ancora acceso. «Il pollo! Fred Weasley, tira fuori il pollo dal forno!» mi urlò all'improvviso. Diventai pallido in volto e la osservai con occhi sgranati. Poi, scuotendo violentemente la testa, sorridendo le dissi: «Parola mia, donna, e dici di essere nostra madre. Non lo vedi che io sono George?» Beh, devo dire... Letta al volo, letta al volo, mi sono mangiato un po' di parole. No, però, no, no, c'era. Sei contenta? Anche diventa virale anche questa volta. Abbiamo dato voce a una lettera virale. A proposito di viralità, non parliamo di influenza. Ovviamente, grazie per il successo che state decretando a questa bellissima web series o series, ma serie web, dai, in italiano, diretta da Mauro Meconi, che è uno degli autori, anche un bravissimo attore. L'attore con... che ha fatto Tre mari sopra il cielo, giusto? Sì, sì, anche romanzo criminale, tante ho cose, ma è un bravissimo regista, devo dire, e lo consiglio sempre. Ma fai regista, lo fa anche l'attore. Vabbè, ma comunque. E questo Mamma Nero, che è una serie carina, 4-5 minuti a puntata, è già la terza puntata, siamo oltre... in tutte e tre più di 400.000 visualizzazioni, che è un bel successo per una piccola serie web. Sì. Ed è in onda da ieri la terza puntata, ovviamente. Va bene, detto questo, non so, questo ragazzo che dite voi? Lo mandiamo avanti, questo De Angelis? Ma, certo, sì. Promosso. Lo mandiamo avanti. Piano piano, si fa. Ma tutto, anche lui quando era giovane ha sofferto, no, e soffre tuttora. Tantissimo, poi soprattutto il doppiaggio è anche uno di quei mestieri in cui uno registra e se sbaglia può anche rifarla. Questo... Non come cinema, no? Il teatro non si fa. Ma tu teatro? Teatro non ho fatto un bel po'. Sì, teatro, eh? Sì. Beh, certo, è vero. È una base, insomma, che uno deve avere, sennò... Ah, urlala sta cosa. Assolutamente. Capito? Teatro. Arrivano dei messaggi, ormai andiamo sull'erotico andante. Sono una ater con l'H. Atea con l'H? Ater. Hater. Ah, hater. Ok. Che vuol dire? Una... Io conosco sono quelli... MILF, conosco queste cose un po' anche... più terra-terra, ma... Sono hater. Quelli che insultano senza motivo le persone sui social, diciamo. Ma bellissimo! Non mi piace questo, non mi hai fatto le cose che fai, ma vorrei tanto vedere con te 50 sfumature di grigio stasera. Non dirmi di no, ti aspetto qua sotto, tua maialina coraggiosa. Ti ha scritto... Non ci posso credere. Ce l'ha con te perché tu hai doppiato Babe, non io. Come si chiama? Dimmelo, ti prego. Non lo dice, c'è il telefono, ma insomma tu... Ah, vuoi già... A sto punto mi scrive... Hater sono le persone che... Offendono. Beh, ma in questo caso non mi sembra un'offesa. Non gli piace il tuo rap, però dice. No, però vorrebbe vedere con te 50 sfumature di grigio. Va bene, possiamo accontentarla. Va bene, cioè sta diventando una radio erotica, non è così, una radio Confindustria. Cerchiamo di lavorare, sono 3 anni che ci lavoro, vorrei che non venisse il direttore a dirmi per te, Pino il segno, Radio 24, finisce qui. Non vorrei, insomma, tutta questa bellissima realtà, però insomma ci sta come Sofia ormai, siamo così, forse hai costruito questa, vabbè, qui qualcuno ce la mandano anche delle cose urlanti contro altre trasmissioni. Va bene, veramente il bello il brano di Amore Psiche, ottima interpretazione di Domenico, un ottimo talento, dice qualcuno. Sì. C'è qualcuno già a favore, dai. Una della famiglia, forse. L'hai pagato prima. Non lo dire. No, scherzo, tanto loro non sanno neanche che sono qui. E allora, va bene così, no, assolutamente. Tu vivi a Roma, però hai detto, sì. No? Benissimo, anche tu vivi a Roma. Lorenzo, siamo quasi arrivati alla fine, non so se è arrivato Edoardo Pianello, perché siamo in diretta, non è ancora giunto? Ovviamente tu che rimane finché... Guarda, è domenica, io sto qua. Esatto, ma poi può rimanere tutta la puntata, guarda. Manca soltanto un minuto e mezzo, però alla fine non facciamo in tempo a sentire un altro dei ragazzi, è vero? Non facciamo in tempo. Va bene, devi leggere quello, eccetera. Che stai preparando, Lollo? In questo momento, guarda, in questo momento sto aspettando che esca un film che ho fatto al cinema, che si chiama Olivia, che è con la regia di Marco Costa, e dovrebbe uscire, spero, entro Natale, dove faccio l'attore dentro. Sì, beh, immagino, se poi il film italiano, se no, noi non doppiamo film italiani. Non ci proponevo, no, tu l'hai doppiati? Pure quelli ho fatto. Sì, no, io non ci riesco. La cosa più assurda che mi è successa è quando una volta ho fatto un provino per una fiction televisiva, dove non mi hanno preso come attore, però poi mi hanno chiamato a doppiarla. No, beh, questo non è bello. Eh no, no, non è bello per niente. No. Però funziona anche così in Italia, purtroppo, a volte. Sì, noi facevamo uno sciopero 1000 anni fa quando per i Promessi Sposi presero il figlio di Anthony Quinn, eccetera, invece gli italiani, insomma. Esatto. I Promessi Sposi scritto da Manzoni, non Manzaini. Bellissimo. Cioè, Alexander Manzain, no? È un italiano, guerrava al lago di Como, cioè, se avete presente. Sì. Vabbè, resta qui finché non arrivi Edoardo Vianello, spero che non si sia perso, insomma, no? Con voi ci vediamo, cioè ci sentiamo, in bocca al lupo per quello che avete fatto, voi restate con noi perché Voice Anatomy continua, tra poco. Voice Anatomy. Eccoci, bentornati signori, 14, 46 primi e 48 secondi in questo istante, sempre in compagnia di Lorenzo De Angelis. Ho chiesto di rimanere ancora un po' perché Edoardo Vianello credo si sia perso nei meandri della... sta arrivando, è arrivato, va bene. E allora abbiamo convocato altri due per questo talent, non mi piace la parola talent, è un contest, mi è piaciuto quello che ha detto un ragazzo, mi piace questo contest per giovani attori e attrici che vogliono tentare anche la carriera del doppiaggio. Abbiamo due splendide fanciulle dopo due uomini che non, sì, per carità, però insomma abbiamo due giovani, per me troppo giovani per te, può essere un ottimo motivo di ricominciare ad amare. Ma non vale come raccomandazione, però se comincia una storia d'amore non vale, non c'è raccomandazioni nel doppiaggio. Il microfono è quello, dovresti avere la bontà di stare lì davanti. Come ti chiami? Matelda. Matelda, sì. Che strano nome, Matelda. Sì, non è Matilda, non è... Non è Matelda, che... com'è? Papà si è ripreso poi, no? È uscito da quella... No, è mamma, colpa di mamma. Leggeva mamma. Dante mentre era incinta di me. Pensa se leggeva Fast and Furious, come ti chiamava, Vin. Toretto. Esatto. Probabile. Grande Edoardo, è arrivato, eccolo lì. Allora, casomai a metà ci salutiamo. E Matelda, sì. Di dove sei? Di Firenze. Vabbè, certo, mamma leggeva Dante, tu di Firenze. Coerente, sì. Vivi a Firenze? Vivo a Firenze. Bellissimo. E cosa hai portato? Ho portato un pezzo di Inception. Insa addirittura, Nolan. Sì. Il pezzo di chi lo faceva nel film? DiCaprio, quindi Pezzulli. Lo chiamiamo, eh? Attenzione, così non, hai capito? Così non entra in competizione. Ha scelto un pezzo maschile. Hai capito? Mm. Questo dovrebbe far pensare che la tua scelta deve essere spostata dall'altra, magari. Ma non è vero. Va bene, allora, vuoi musica, qualcosa? No, no, non importa. Alla grande. Allora, nome e cognome e il pezzo, vai. Ok. Matelda Giachi. Dicono che usiamo solo una frazione del vero potenziale del cervello, ma questo quando siamo svegli. Quando dormiamo la mente può fare quasi ogni cosa. Immagina di progettare un edificio, d'accordo? Ne crei consapevolmente ogni aspetto, ma a volte sembra quasi che si stia progettando da solo. Non so se mi spiego. È pura ispirazione, giusto? In un sogno la nostra mente lo fa di continuo, senza interruzione. Noi creiamo e percepiamo il nostro mondo simultaneamente e la nostra mente lo fa così bene che neanche ce ne accorgiamo. Questo ci consente di inserirci nel mezzo di quel processo, assumendo la parte della creazione. Ed è qui che ho bisogno di te. Tu crei il mondo del sogno. Noi portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con il suo subconscio. I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano. Voglio farti una domanda. Tu non ricordi mai esattamente l'inizio di un sogno, vero? Ti ritrovi sempre in mezzo a quello che sta succedendo. Allora, come siamo arrivati qui? Pensaci, Arianna. Come sei arrivata qui? Dove sei in questo momento? Ok, lascio la pausa. Dove sei? Tutto un po' toscano, eh? No, va bene, non ti preoccupare. Quanti anni hai? 29. Ah, vedi, sembra più giovane invece. Va bene. Si avvicina molto all'età del nostro amico 33enne professionista alla mia sinistra. E tu invece, piccola creatura, vicino al microfono. Sono Federica Russello. Apriamo anche il microfono, che mi sembra sia chiuso, vero? Ok, vai. Sono Federica Russello, ho 24 anni e vengo dalla provincia di Modena, Mirandola. Mirandola. Un paesino, beh, piccolino. Beh, già il nome è molto teatrale. Mirandola, beh. Vivi lì? Vivo lì, sì. Va bene. Cosa hai portato? Ho portato un pezzo di Ragazze Interrotte, interpretato da Angelina Jolie e doppiato da Eleonora De Angelis. Una cosa leggera. Sì, una cosetta. Beh. Va bene. Ma hai qualche attinenza col personaggio bipolare? Cioè, No, però stai tranquillo. Spero di no. Per ora no. Ok, siamo tranquilli allora sì, noi qui. Sì. Vai musica, qualcosa? No, niente, grazie. Bianco, va bene. Bianco. Allora, nome e cognome e il pezzo, vai. Federica Russello. Io sono malata, Daisy, questo lo sanno tutti. Ma tu stai nella cosiddetta fase di recupero. Stai qui a fare la piccola massaia e ti affetti tutta come un prosciutto. Aiutami a capire. Io credevo che non ti facessi di Valium. Dimmi come funziona la tua di rete di salvataggio. Dimmi che non prendi quella lama, te l'appoggi sulla pelle e preghi che ti venga il coraggio di spingere forte. Dimmi com'è che Paparino ti aiuta a sopportare tutto questo. Non sei uscita perché stai meglio, Daisy. È che si sono arresi. Tu questa la chiami vita? Accettare i soldi di papà, comprarti ninnoli e bambolette, i gozzetti di pollo diventando grassa come una vacca da fiera. Hai cambiato scena, ma non hai cambiato situazione. Il secondino ti fa visita a domicilio. E lo sanno tutti quanti. Lo sanno tutti che lui ti scopa. Quello che non sanno è che ti piace. Sì, dai, sta tranquilla, è tutto ok. È perfetto, è favoloso. Un uomo è un cazzo. È un uomo, è un cazzo, è un pollo. È un papà. Un Valium, un vibratore. Quello che vuoi. Ti piace fare la signora Randone. Probabilmente non hai fatto altro in vita tua. Ma devo dire, complimenti. Sì, non è male, non è grazie. Male per niente. Noi siamo sdoganati da Cruciani qui a Radio 24, ringraziando il cielo. Una voce particolare. Perché alle 2:30 del pomeriggio parlate dei vibratori, che cazzo. No, ma va bene, no, avevo ci sta. Qualche dubbio. No, però l'hai detto, hai fatto bene. No, va bene, ma quando sono detti a fine artistico come questo, si può fare. Signorine, potete abbandonare la vostra postazione, io inviterei invece questi due signori che sono sopraggiunti in questo momento, rimane anche Lorenzo per adesso. Grazie, abbiamo il vostro file, avrete nostre notizie nel bene e nel male, perché io odio le persone che non fanno sapere le cose quando, anche quando vanno male. Il brutto quando fai un provino di voce e ti dicono lasci una foto, quello vuol dire che non è andata granché bene, capito? Bocca al lupo, grazie, ragazzi. Grazie. Allora accogliamo con un grande applauso dall'altra parte maestro. Il maestro. Oh, eccoli qui, la prego, è tutto in diretta. Grandissimi baci enormi. Ecco come si fa in televisione. Lorenzo De Angelis, attore, piacere, bravissimo, doppiatore, professionista. Vi stavamo aspettando. Edoardo Vianello, sì. Guarda come dondolo, no, guarda no. Come dondolo, allora... con le gambe ad angolo, guarda come dondolo. Bene. Ok, sì, guarda, metti la cuffia. Ah, metti la cuffia, se no non cioè, vabbè, che ormai la cuffia per i capelli non ti serve neanche no. Più, però. E presentaci questa signora meravigliosa al tuo fianco, scusami. È la signora Vianello, è il certo. Frida Vianello, è detta Frida. Frida. È Frida, come Frida Kahlo. Bravo. Mia moglie da 11 anni. Sì, sì, non da 20, da 20 insieme e basta. Sì, non so il controllo, un divorzista, un avvocato civile. No, devi controllare, si sa mai. Tu ormai hai superato, sei Highlander, caro amico. Stiamo aspettando di sentire le ultime versioni dei tuoi brani che, insomma, va bene. Lui è un giovane anche musicista, però ovviamente non può non conoscere. Sono delle persone passano e sono un ragazzo magari di 10 di 20 anni, Nino Manfredi dice con chi giocava, che purtroppo Ottognazzi eccetera, perché purtroppo perdiamo ogni tanto delle eredità importanti e io spero sempre che qualcuno faccia qualcosa per raccontare questo passato che abbiamo avuto straordinario di cinema, di televisione, di canzoni che di arriva musica. Fino ai giorni nostri, esatto, ma l'unico che le attraversa tutti è questo signore che tu hai al tuo fianco da 11 anni, come hai detto praticamente, cioè io non voglio tu quest'anno fai, no, facciamo una prova, cioè sì. Se a tutti chiediamo Edoardo, nel continente nero non si può cioè scatta immediato Alligal, cioè scatta bronzatissima, capito? Pure sulle parole crociate, cioè, ma non ce n'è una. Quando a un paio di miei amici, ventottenni amici, parlavamo degli ospiti, di chi viene domenica, siccome è una trasmissione molto amata, molto seguita un po' da tutto il pubblico, sia di quello di Radio 24, ma anche quello che abbiamo sdoganato per Radio 24, tu gli fai sentire i brani, è fatta, cioè è finita, cioè, non ce n'è uno, c'è la fatica. Non è un capello? Ma un crine di cavallo. Ah, ma pensi come fa le domande? Vai a lui. E lui che c'è. Nel continente nero. Parabonsi bonsi po. Alle palle del Kilimangiaro. Parabonsi bonsi po. Ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti falli. Più famose là. Ligalli. Sia amoi va tu, sì. Gli altissimi negri

se tu pensi che il mio primo messaggio che ho ricevuto SMS, ero orgoglioso, contento, la prima trasmissione 3 anni fa, leggo, una signora dice: finalmente Pino insegno per radio. Lo leggo mentre arrivava, così posso fare le pulizie per casa, visto che l'aspirapolvere no. E te avete la stessa voce. Primo SMS a Radio 24. No. Non te dà uno startup felice di vai, sto facendo la cosa giusta. Però no, io li leggo, anzi, soprattutto quelli che, soprattutto quando la critica poi è, no, puoi dire che Beethoven è migliore di Edoardo Vianello. Come oppure capito? Che era pure sordo, ma santo Dio, è morto pure prima, ma santa miseria. Va bene, andiamo in pubblicità, resterete ancora con noi altri 15 minuti. Va tranquillamente bene, non muovete, grazie a voi. Frida, prepara qualche notizia che non sappiamo noi. Io qui dall'Italia. Io sono piena, quando vuoi. Io sono piena. A tra poco, Radio 24. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, Lorenzo De Angelis mi sta facendo compagnia altri 10 minuti insieme a Edoardo Vianello e Frida, che non solo moglie dodicenne, terza moglie, caro Enrico VIII. Terza moglie, che faccia, che fa il tuo commercialista, ha apprezzato questa cosa delle 3 mogli, sì, tranquillamente. Quanti figli hai, Edoardo? 2. Due, che sono grandi, immagino, più grandi di te. Guarda che faccia che fa. Tournée all'estero, tanta? Ogni tanto, adesso vado in Canada a novembre. Parte novembre, va in Canada. Ma vai anche tu? Io basta, sono andata 20 volte, ho detto non mi chiama. Lo mando con la prima moglie però. Ma come? Ma tu canti, Frida? Io no, io sono un ingegnere, prestata allo spettacolo. E un ingegnere hai preso? Ingegnere cosa? Edile, elettronico? Elettrotecnico. Alta tensione, i trasformatori elettrici. Se insomma lui memore sotto una scarica elettrica, ho capito che le cose non andavano molto bene, no? Fra voi. Ma vuol dire che era intervenuta lei per... Esatto, in qualche modo. No, lo mando con la prima moglie a fare il concerto in Canada. Ah, con... Vilma, sì. Con Vilma, che carina, vorrei... L'ho riabbracciata un anno e mezzo fa, quando poi vi siete messi pure insieme, abbiamo presentato a Domenica Inn vostra accoppiata, che ma quella è bella, resterà per sempre, insomma, sì, non c'è ex moglie che sono amici, sì, sono ormai, fanno parte, un corpo e un'anima che non è una canzone loro, ma può far parte della loro vita, invece... Siamo gente de Borgata che io ho cantato a tale quale show cercando, abbiamo seguito cerchiamo in diretta, di dimenticare in diretta. Ma no, mi faceva ridere che io non diretta. Qualsiasi trucco tu mi fai io assomiglio a me stesso. Lì era Edoardo Vianello che imitava Pino Insegno, Luis Armstrong che imitava Pino Insegno, perché io ho imitato soprattutto lui, come stava tutto bello con la giacchetta, sì, tutto sì, rigido sì, con la manina. No, sei stato abbastanza bravo, ma, non che... è... ma scusa, ma non è facile imitare lui, ma non è impossibile, sono inimitabile, esatto. Eccola, siamo gente de Borgata. Bellissimo. Un testo di Franco Califano. Sì, Franchino, un bacio dovunque sia. Una stanzetta in affitto è trovata. Per momento vabbè. Siamo gente de Borgata. Non potemo pagare. Da domani comincia il carvario. Non c'è altro da fare. Via sto calendario e qualcosa cambierà. Siamo ricchi di volontà. Eccolo insieme. Cuore mio, la speranza non costa niente. Quanta gente c'ha tanti sordi e l'amore no. No, e stiamo meglio noi che non mangiamo mai. Cuore mio, quanti anni ha sta canzone? Questa è del 72. Com'è quindi... nata con col grande Franco Califano questo rapporto? Vabbè, Franco l'ho conosciuto quando faceva l'attore di fotoromanzi. Ah sì, ma bello era Franco. Nel 64. E era questo ragazzo aitante, certo, hai tante grande, possibilità. E una sera mi fece sentire una sua poesia, mi lesse una sua poesia. Io rimasi molto sorpreso perché non corrispondeva. No, le sue poesie non corrispondevano. Era una poesia sull'amicizia, molto toccante. Allora gli proposi di provare a scrivere dei testi e lui dopo pochi giorni mi portò proprio un pacchetto. Per cui fu proprio la prima esperienza sua come paroliere. La prima canzone che ha fatto l'ha fatta insieme a me, da molto lontano, nel 1964. Poi siamo diventati amici e nel 60,

pure sono contento, sono contento. Oh mio Signore, è una bella io poesia. Ti ringrazio. Ma tu queste le hai ricantate adesso, cioè da poco? Sì. La voce è clonata, cioè non si è mossa. Guai a lei. Sì, ma veramente ha avuto veramente, come dice, dopo avremo Pino, un'altra puntata non con fuma, Franco Fussi. Non fuma, sì, non beve. Non beve, non va a donne. Non va a donne, mo. Mo, mo. Dall'Albania si dice non va a donne, mo. Mo. È proprio un rafforzativo albanese, mo. Ah, sì, tu l'ha guardato? Canta tutti i giorni, fa l'esercizio, perché sai, le corde certo, vocali sono dei guarda, muscoli. Questa, ogni, dopo Franco Fussi, per la sesta lezione di pillole di salute vocale, che è uno dei più grandi vocologi, e otorino laringoiale, eccetera, coach di Bocelli, eccetera, insomma, per cui vado il 28 a Ravenna a sentire un suo esatto, anch'io sono lì a Ravenna, faccio il ma incastrato per, però volentieri, insomma. Capito? Il suo, come si chiama il medico, quello delle otorino laringoiale, ecco, gli ha detto: Edoardo, al posto delle corde vocali hai due scaricatori di porto. Ma fammo frequentare un po' di più questo, cioè, capito? Brusco, brusco. Ma mi chiedo come fai. L'ha fatto benissimo. Sì, un bel pezzo questo. Sì. Della mia adolescenza, anni fa. Beh, è uscito ormai nella mia maturità. Nella mia maturità. Ricordi l'adolescenza tu? C'era? C'è stata. Sono passate più di 10 anni. È un bel successo questo pezzo, no, non molto. No. 15 anni. Allora, siamo arrivati. Cioè, io tanto devi tornare, tu. Devi tornare 45 minuti. Non posso sì, ma non posso raccontarti in 45 minuti. Devo raccontarmelo in un paio d'ore. Però tanto tu stai a Roma, no? A Roma, Roma. Allora, anche dai. Abito vicino, sto Porta Pia. Allora, poi Porta Frida, piano piano, no? Tu, Porta no? Pia, no, Porta Frida. No, Porta. È vero che fa pure l'attore. Adesso noi continuiamo sentendo gli ultimi ragazzi del contest e poi finiamo con Franco Fussi, anche questa bella puntata. Bella, grazie per avermi ospitato. Ma, insieme grazie a Pino. No, Edoardo, ma ci mancherebbe, cioè io dico grazie, non mette svano questi ringraziamenti fa il presentatore eccetera, ma il grazie viene da parte nostra, perché un pezzo di storia con questa forza, con questa intensità non fa altro che abbellire quello che sto facendo. E quando parli di voce, quando trovi una persona che non gli è cambiata in nessun modo e poi detta con quella voce, esatto. Infatti, volevo chiedergli se ha un segreto per non fa cazzate, cioè ho capito, non ma fa tardi, sta attento, non ci fuma, sta non beve, veramente incredibile, esatto. Lavorare, cantare ovunque, Edoardo ovunque ha la possibilità di cantare, prende la chitarra e canta, esatto. Pensavo domani c'è una festa genso a casa nostra, allora, beh, un video di mettere la chitarra, ma so così uno deve essere così, sì. A me pure non mi devi pagare. Cioè io, uno è, basta dopo, che mi dai il pubblico, esatto, da uno in su, da uno su va bene, non è esibizionismo, è voglia di darsi. Bene, grazie Lorenzo, grazie De Angelis, a tutti, grazie a tutti. Davvero Frida, buona grazie domenica. Avermi accompagnato, grazie, in questa veramente bella piccola passeggiata, perché ne serve una più lunga, con Edoardo Vianello. C'erano più Pino in segno in questo mondo. È più Edoardo, ma è meglio più Edoardi, guarda, è meglio così. A tra poco con voi Sanatomi, grazie. Sanatomi. Bentornati signori miei, le 15:39 minuti, abbiamo gli ultimi due di questo contest di codesta domenica, che sta andando veramente bene. Sono molto contento di aver dato la possibilità insieme a Radio 24 e alla Warner di dare la possibilità dei giovani, anche magari non giovani, ma voi siete tutti giovani, di poter entrare in questo fantasmagorico mondo della recitazione. Abbiamo grazie per una questo. No, ma assolutamente grazie a voi. E tutte e due cominciamo dal maschietto, come ti chiami? Mi chiamo Oscar Tuzza, vengo Oscar da Oscar già ti aiuta molto Oscar, in questo sì mestiere, dai, dai. Vengo da Sangano in provincia di Torino. Ah, perfetto. E tu studi, sì, recitazione? Sì, sì, io faccio l'attore. Quanti anni hai? 28. 28 anni. Va bene. Allora, il tuo nome e cognome e il pezzo che reciterai, dille il titolo e comincia a fare. Ok. Vuoi Oscar un sottofondo? No, va bene, no, così. Benissimo, vai. Oscar Tuzza, la filosofia dei fumetti. Come sai, io sono un grande appassionato di fumetti, soprattutto di quelli sui supereroi. Trovo che tutta la filosofia che circonda i supereroi sia affascinante. Prendi il mio supereroe preferito, Superman. Non un grandissimo fumetto, la sua grafica è mediocre, ma la filosofia non è soltanto eccelsa, è unica. Dunque, l'elemento fondamentale della filosofia dei supereroi è che abbiamo un supereroe e il suo alter ego. Batman è di fatto Bruce Wayne, l'uomo ragno è di fatto Peter Parker. Quando quel personaggio si sveglia al mattino, è Peter Parker. Deve mettersi un costume per diventare l'uomo ragno. Superman non diventa Superman. Superman è nato Superman. Il suo alter ego è Clark Kent. Quella tuta con la grande S rossa e la coperta che lo avvolgeva da bambino, quando i Kent lo trovarono, sono quelli i suoi vestiti. Quello che indossa come Kent, gli occhiali, l'abito da lavoro, quello è il suo costume. Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. È debole, non crede in se stesso ed è un vigliacco. Clark Kent rappresenta la critica di Superman alla razza umana. Ok, anche per te, nome e cognome? Sono Laura Baldassarre. Di dove? Sono di Pescara ma vivo a Roma. Quanti anni hai? Ho 30 anni, sono attrice e speaker di spot pubblicitari per bambini per canali Cartoonito e Boing su Sky. Allora, nome e cognome e il pezzo. Laura Baldassarre, Memorie di una geisha. E là, vai. Il cuore muore di morte lenta, perdendo ogni speranza come foglie, finché un giorno non ce ne sono più. Nessuna speranza, non rimane nulla. Non è per una geisha desiderare, non è per una geisha provare sentimenti. La geisha è un'artista del mondo che fluttua, danza, vi intrattiene, tutto quello che volete. Il resto è ombra, il resto è segreto. Non si può dire al sole più sole, alla pioggia meno pioggia. Per un uomo la geisha può essere solo una moglie a metà. Siamo le mogli del crepuscolo. Eppure apprendere la gentilezza, dopo tanta poca gentilezza, capire che una bambina, con più coraggio di quanto creda, trovi le sue preghiere saudite, non può chiamarsi felicità. Ale. Bene, a proposito di fare cose per bambini, complimenti. Ok, dobbiamo salutarci, andiamo subito in pubblicità perché abbiamo l'ultimo blocco insieme al grande Franco Fussi. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, ancora una volta al mio fianco l'amico, il dottore, ma il medico di famiglia in questo caso del nostro apparato vocale, in queste nostre pillole di salute vocale, Franco Fussi, con lui stiamo parlando un po' a 360 gradi per salvaguardare la nostra salute vocale con alcune testimonianze molto importanti e c'è un'altra al telefono, ma prima di ascoltarlo, ecco qui, c'è un'introduzione musicale che ci ha accompagnato un po', ecco, eccola qua. Di felicità, fuga dall'inferno, finalmente viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Eccolo qui, estate, ci sei tu Francesco Gabbani? Sono, ciao. Ciao. Eccolo, ciao. È finita l'estate, ci hai accompagnato, adesso esatto. Comincia la autunno. Esatto. Facciamole tutte e quattro, facciamole tutte e quattro le stagioni, Francesco. Poi c'è l'inverno e poi però primavera torna a mare, perché c'è la primavera. Come la dividiamo? È difficile, è cacofonica come stagione. Un po' Vivaldi. Senti, Franco che ha fatto la citazione di Vivaldi, capito? Ci ha fatto passare come due leggeri superficiali e lui invece si è preso la citazione migliore. Francesco, ti chiamiamo perché sei un professionista della voce anche tu e conosci Franco. Noi ci stiamo divertendo da alcune settimane qui a Radio 24 con la trasmissione Voice Anatomy, che si occupa proprio della voce a 360 gradi, come salvaguardare. Come vi siete conosciuti con l'amico Franco Fussi? Stavi male, ha telefonato Afono? No, lui non lo sa, ma ero dietro le quinte a Sanremo quando lui poi ha vinto. Mi era troppo preso dal palcoscenico, a questo punto non ho detto cagato. Esatto, io ero con gli altri. Stava con gli altri. E allora non cagarlo tu, attacca il telefono, Francesco, attacca. Attacca. No, in realtà io credo che mi sia arrivata inconsciamente questa energia, questo supporto del professor Fussi anche a Sanremo, anche se in realtà non ci conoscevamo ancora. Hai capito? Che abbiamo sentito prima Andrea Bocelli, abbiamo sentito io in queste settimane Bocelli, Elisa, Karima, eccetera. Però era venuto per altri e poi siete diventati amici voi. Per cui te lo devi portare dietro come portafortuna. Che cosa fa? Cioè, il negromane, che cosa fa? Come si comporta? Ma gli chiedi consigli, Francesco? Come salvaguardi la tua salute vocale, per esempio? Chiedo consigli io ho avuto il piacere di conoscere Franco, proprio insomma sono andato a farmi fondamentalmente analizzare. Hai fatto un'anamnesi. Perché io sono un po', tra virgolette, un cantante atipico, nel senso che credo di essere uno che canta in realtà le canzoni che scrive, ecco, quindi certo. Sono uno che, lo dico molto sinceramente, non ho, diciamo, una grande preparazione tecnica, sono sempre stato molto istintivo nel mio modo di certo. cantare, però a fronte, diciamo, di una tournée molto lunga che quest'anno mi ha visto impegnato per tutta l'estate, sono andato giustamente a farmi analizzare, da certo. illuminare come il grande ma non c'è niente di male a nascere come autodidatti e poi però comunque mettere certo. la testa ho fatto la stessa cosa, Francesco. Io certo, assolutamente. Quando cominciai 37 anni fa, ormai or sono, mi vengono subito i noduli sulle corde vocali e doppiavo solo i porno, per cui puoi immaginare che insomma c'è la mia inizio carriera col teatro e il doppiaggio dei porno mi ha portato già due noduli sulle corde vocali, per fortuna certo. poi ho capito come fare in qualche modo, anch'io ho cominciato giustamente così, poi non si finisce mai di imparare e di studiare in questo ambiente come in tutti, bisogna dirlo, Francesco, perché poi assolutamente noi viviamo di questo. Io devo dire che aver avuto la possibilità insomma di conoscere Franco e di ascoltare le sue analisi, devo dire, mi ha fatto molto, mi è servito molto, mi ha aiutato molto per affrontare questo tour con un po' più di consapevolezza, con certi accorgimenti che vi hanno permesso, certo. ecco, di affrontarla al meglio senza cercare di sprecare troppe energie, ecco, e non sì, sapere come salvare il proprio elemento, cioè tu lavori con quello, cioè con la voce, per cui riscaldamento lo fai riscaldamento lo faccio, okay. Mi prendono un po' per matto perché ho questo ausilio di questa mascherina che dicono ma che stai a fare, ah, c'è la mascherina quella per idratare, c'è la mascherina, no per idratare ma per riscaldare la voce, ne parleremo magari poi ne parliamo, perché mi ha detto di questo fazzoletto bagnato. Io faccio teatro da 37 anni ma no, non sapevo del fazzoletto umidificato che te lo metti vicino al naso che ti umidifica prima, cioè sta dicendo delle cose, ha parlato pure delle erbe da usare, ma lì abbiamo bypassato e spiegato ai nostri radioascoltatori non è quell'erba che pensate, altrimenti no, non infatti, rischi questo sì, dubbio, no? Esatto, dice sta consigliando dice no, ho fatto dire faccio il cantante, mi riscaldo la voce in camerino usando l'erba, hai capito? A priori è un po' così ambigua, esatto, e cominci esatto, bellissimo esatto. La fai in un altro modo, non è quello. Insomma. Strafatto. Francesco, grazie di questa bellissima testimonianza, carina. Io ma spero di averti, ovviamente non fisicamente, di averti proprio fisicamente, ma in radio come ospite quando passi per Roma, Radio 24 e Voice Anatomy e Pino Insegno sono al tuo servizio, caro Francesco, quando grazie, vuoi e come vuoi. È stato un piacere per me. È un abbraccio. Stato. Ciao. Buon grazie. Ciao. Ciao Francesco. Ciao. Buon tutto. Ciao bello mio. Grazie. Persona deliziosa. Deliziosa davvero. Ho avuto modo di incontrarlo un paio di volte. Quando incontri le persone sorridono. Anche sì, quando sì. non c'è niente da ridere. Cominciano le prove. Ma così semplice, deve molto, signori, molto è un gioco. Cioè, un gioco. La vita. Sì. Una bella passeggiata. Qui esuliamo un attimo. Pensare un po', no? Sì, bisogna, sennò... no, veramente. Perché, ecco, l'altro giorno camminando per la strada vedo le persone, i ragazzi. Oh, ciao, Pirinzegna. Sei il numero uno, ho fatto vabbè, poi se incontri Fiorello adesso che gli dici sei il numero due, no, uno, ma poi comunque darsi alla gente, io lo urlo sempre, che poi la gente, questo passaggio, io ho chiesto ai ragazzi trentenni, ho detto ma sai chi era Bice Valori, Paolo Panelli, Delia Scala, non lo sanno. No, per cui no, ho capito, tutto passa, e allora dico godiamoci questo momento e diamo alla gente che la gente ci dà e ci permette di fare il nostro mestiere, e soprattutto ricordiamo questi grandi che non ci sono più. Scusa se ho bypassato un attimo l'argomento, ma perché il sorriso di Francesco Gabbani mi ha ricordato che esiste insomma la vita, la bisogna vita. Prenderla così anche quando succedono cose non giuste. Abbiamo ancora un 3 minuti e mezzo per tutorializzare ancora sulla voce, di cosa vuoi parlare, caro Fussi? Abbiamo tante cose, ma ne parleremo. Il riscaldamento solo. Magari lo approfondiremo la prossima volta, sì. Però magari diamo un cenno a che cos'è il riscaldamento vocale, esatto. Perché bisogna fare il riscaldamento vocale. Allora, quando noi utilizziamo una muscolatura, tutti gli aumenti di attività di un muscolo causano un aumento della temperatura corporea, mentre invece se entriamo in azione di colpo a freddo, noi siamo con una muscolatura che ha una reazione, si scatena una reazione protettiva contro lo sforzo, contro lo strappo, e quindi la nostra muscolatura si accorcia, cioè si contrae. Se questo vale per tutto, vale, no? Per tutta la muscolatura. Poteva essere proprio atletica leggera prima della partita a calcetto. Esatto. Nel caso specifico della voce abbiamo i muscoli laringei, esatto, della lingua, del collo, che sono più rigidi, quindi dobbiamo impegnare più pressione aerea per avere la stessa resa vocale, quindi andiamo a stancarci molto prima e avere, per avere lo stesso tipo di prestazione vocale, e quindi ci stanchiamo prima e aumentiamo i tempi anche di recupero vocale. Allora il riscaldamento serve proprio a questo, a creare uno stretching della muscolatura in maniera tale da poter gestire pressione aerea e utilizzo delle corde vocali nella maniera più comoda possibile, con minor impegno muscolare, e quindi fare meno fatica durante la prestazione vocale. In più possiamo ottimizzare determinati pattern di emissione vocale, cioè mettere in sintonia le nostre cavità di risonanza in base allo stile ovviamente che stiamo performando, e quindi in base al codice, alla tecnica che stiamo utilizzando in quel momento, e per avere la miglior resa con la minima spesa. Bisogna dire adesso, senza andare avanti, che manca pochissimo, che esercizi fare, come non fare, ma lo diremo, esatto, la prossima volta faremo un elenco degli esercizi. Volevo utilizzare quest'ultimo minuto insieme, almeno per questa puntata, per ricordare ancora una volta questo bellissimo convegno che stai preparando. Mancano pochissimi giorni, insomma è il 26, siamo al 15 ottobre. Sì. 26, mancano 11 giorni, dal 26 al 29 26 a Ravenna. 29 a Ravenna, Teatro Alighieri. Teatro Alighieri sarà questo convegno che ogni giorno andrà dalla mattina alla sera. Com'è? Dalla io mattina... so che ci sono dalle 2 alle 4 del pomeriggio. Perché tu ci sei teatro. Dalle 2 alle 4 alle 27, però faremo 5 ore la mattina, 5 ore il pomeriggio, 2-3 ore la sera, perché ci saranno degli spettacoli. Mamma mia! È una full immersion. E abbiamo la mattina neuroscienze, prima mattina neuroscienze e canto, quindi ci sarà anche una praticamente un premio award delle neuroscienze del 2011 e del 2012. C'è una ricercatrice canadese, si chiama Isabel Perez, che parlerà dei problemi dell'intonazione, quindi delle aree cerebrali che sono implicate nella... Questo sarà utilissimo anche alle persone normali, fra virgolette, è bellissimo. Sì, ci saranno tanti, canto... tanti professionisti poi verranno sicuramente. Abbiamo poi pomeriggio una sessione sulle posture, la presa del palco, il palcoscenico, quindi osteopati e dei trainer che ti fanno utilizzare al meglio il corpo scenico nel palcoscenico da parte del cantante. Poi avremo una sessione sul canto barocco con alla sera uno spettacolo Serva Padrone, quindi Pergolesi con la tua regia e il sequel di Aldo Tarbella. Io farò la regia della Serva Padrone. Questo è il primo giorno, il 26. Fermati qua. Okay. Perché poi la prossima settimana parleremo del 27 e poi ci arriveremo 28. Anche la prossima settimana. Perfetto. Che verrà, sarà domenica 22 ottobre, e saremo proprio a lì, saremo a proprio ridosso. Allora grazie Franco, grazie come sempre per la tua grandissima disponibilità per regalarci queste bellissime pillole di salute vocale. Meravigliose, devo dire, molto molto interessanti anche per voi laici che non fate questo mestiere. Grazie signori miei, grazie, ci sentiamo domenica prossima. Voice Anatomy, Radio 24, e soprattutto grazie a voi per volerci così bene. Ciao.